radio Veneto. Come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 8 minuti dopo le 21, ben ritrovati su Blu Radio Veneto. L'appuntamento è quello con Blu Radio Sera. Chi vi parla è Sergio Bortolami. Dall'altra parte del vetro la voce, la presenza di Maurizio Calzavara. Maurizio, anche questa sera siamo qui per contattare, per conoscere due artisti questa sera. Siamo la copiata, Sergio, dell'anno scorso, come abbiamo io e te ogni martedì fatto un sacco di interviste con parecchi artisti, ti ricordi? In questa fascia, sì, in questa fascia del martedì. Esattamente. Bene, siamo pronti, allora penso che al telefono ci sia Giulia. Buonasera Giulia Villari. Sì, Villari o Villari, Giulia? Villari, ciao a tutti. Ciao Villari, benissimo. Non sapevo dove era situato l'accento, allora mi sono permesso di provare. Molti sì, non sanno bene come accentare il mio cognome. Benissimo, tu sei romana e sei una cantatrice, ho letto una recensione molto bella, tutta grinta e rock, è vero Giulia? Abbastanza, sì, sono romana, nel senso vivo a Roma, sono nata a Roma, eccetera eccetera, anche se ho origini un po' in tutta Italia. Bene. Sono la prima generazione di Roma. E sono la cantautrice rock, sì, faccio la cantautrice rock. Sì, la cantautrice rock, ha inciso un disco, un EP con 6 pezzi, tutto cantato in inglese, mi pare, vero Giulia? Sì, sì, sì. Come mai questa scelta di cantare tutto in inglese? Ma in questo caso è venuta così, in modo naturale, non è stata una cosa pensata. Poi vedremo, magari nel futuro si potrà anche cambiare. Però in aramaico. Come mai? Una cosa molto bella, ho letto il tuo curriculum e sei stata folgorata dai Marelle & Kunz nel 2005. È vero, questo è proprio vero, nel senso che per un caso della vita gli ho scritto sul loro sito, quando ancora internet davvero si usava non moltissimo in Italia. Sì, mi pare il 2005, vero Giulia? 2004, perdono. Sì, nel 2004, che mi sembra, non so, 100 anni fa, in un certo senso. E loro mi risposero, ma io in realtà gli scrissi per un'altra ragione, per sapere delle cose loro, così. E niente, da lì nacque un'amicizia e gli feci sentire le mie prime cose, proprio primissime, e da lì un po' sono stati loro, insomma, che mi hanno un po' spronato a muovermi di più. Insomma, in questo mare della musica. Dobbiamo sottolineare, Sergio, che lei ha partecipato ai cori di bellezza dei Marlene, quindi una cosa mica da tutti i giorni, mica da ridere. Esatto, vero Giulia? Sì, è vero, poi alla fine mi hanno coinvolto in questo, sono venuti a Roma a finire di registrare questo album che si chiama Bianco Sporco, che è il sesto album dei Marlene, e mi hanno fatto partecipare come seconda voce in questa canzone con un titolo, tra l'altro, di cui sono molto fiera, si chiama Bellezza, quindi sì, un'esperienza molto, molto bella. Che emozione hai avuto cantare e suonare con i Marlene? Ma io non ci ho creduto fino, cioè ho registrato e tutto quanto, ma ho detto finché non ho il CD davanti con scritto il mio nome e sento la mia voce, non ci credo. No, però loro sono stati molto carini. Decisamente, sono una grande band, Godano è un grande autore di canzoni secondo me, sì, uno dei più grandi in Italia. Decisamente, ha trovato un suo stile, insomma. Sì, esattamente, Bene, cosa dici Sergio? Cominciamo ad aprire la finestra, quella solita nostra, per esplorare il disco di Giulia, che si chiama River, un bel titolo, River, questo fiume. Sì, sì, sì, perché un po' tutte le mie canzoni avevano a che fare con l'acqua, il mare, che in realtà è un tema molto, molto trattato da noi, insomma, musicisti in generale. Tra virgolette artisti, io non faccio parte della schiera, io sono una mera, così, ci sto provando, ecco. Però sì, è vero, è un argomento molto, molto usato, molto praticato e musicisti. Tra l'altro anche la copertina del tuo disco è piuttosto acquosa. Sì, sì, sono dentro l'acqua con una chitarra. Sì, sì, sì, sì, molto molto carina. Andiamo a sentire la prima canzone che Maurizio ha pensato di proporre. Guarda un po', ho sentito la proprio River, eccola qui. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giulia Villari con noi nel corso della nostra serata, di questa prima parte di Blu Radio Sera. Maurizio. Sì, Giulia, un singolo, un primo pezzo d'apertura, la cosiddetta title track, come si diceva una volta, Giulia. È un pezzo accattivante ma potente, belle chitarre, tu sei una rocker, c'è poco da fare. Abbastanza, sì, devo dire che, vabbè, chiaramente il mio punto di riferimento è il rock, però proprio, diciamo, un po' questa energia in qualche modo, questo impeto fa parte proprio del mio carattere, sono una piuttosto diciamo energetica, è così, quindi non c'è, è perfettamente in accordo con come sono io, come sei te. E come sei riuscita ad avere come produttore l'ex batterista di PJ Harvey? Però ecco, però sì, diciamo io e Sergio, però sempre grazie a Marlene, è sempre grazie a Marlene. Sì, in realtà li avevo contattati anche proprio per questo motivo qua, perché mi interessava, perché loro avevano collaborato con lui in un disco e a me piaceva moltissimo il suo lavoro e lo seguivo parecchio, eccetera eccetera. Insomma, comunque, in questo disco che appunto in cui ho partecipato, che diciamo prima, Bianco Sporco, certo, c'era anche Rob che si occupava di insomma di una parte della musica, insomma, e quindi l'ho conosciuto sempre lì nel 2004 nello studio insieme a Marlene. Poi da lì anche con lui è nata un'amicizia, insomma. Che insegnamenti ti ha dato Rob Ellis, grandissimo artista, grandissimo produttore? Ha prodotto non solo PJ Harvey, Marlene Kunz, Placebo, cioè gente di calibro notevolissimo. È proprio così, Sergio, c'è poco da fare. Strabuzzo gli occhi. Esatto. Dimmi. Ma intanto mi piace moltissimo il suo, insomma, come lavora, perché tende a, lo dice spesso, no, di fare a fare uscire più quello che tu sei, senza aggiungere, diciamo, cose, cerca di togliere, anzi, per fare uscire meglio quello che tu veramente vuoi dire. Ma tra, diciamo, tra me e lui c'è una perfetta sintonia rispetto alla musica, eccetera. Spesso mi ha detto, una volta mi ricordo a Londra, ci trovavamo a Londra, e gli spiegavo un po' come mi sentivo, insomma, nella musica, così. E lui mi ha detto, insomma, sì, ti capisco, insomma, rock and roll è una certa cosa, insomma, mi ha spiegato che cos'era per lui il rock and roll, e insomma ci siamo veramente trovati d'accordissimo. Decisamente. Non è uno di quei produttori che insomma stravolge le idee dell'artista. No, ti lascia abbastanza fare. Sì, sì, decisamente. Diciamo, almeno con me ha tentato di che altro indirizzarmi verso una strada, però non ha cercato di coprire, insomma, quello che spesso, non so, le produzioni, vedo produzioni che mettono, non so, 20.000 strumenti, eccetera, eccetera. Invece lui cerca di tirare fuori il meglio da quello che tu sei, che stai facendo, che fai, che è la tua, diciamo, peculiarità. Benissimo, andiamo avanti con un altro pezzo. Ho scelto la traccia numero 3, la vuoi presentare a te, Giulia? Allora, la traccia numero 3, che è Dedicated to You. Esattamente, un pezzo che è stato molto amato dalla critica, anche da me, chiaramente, io l'ho sentita, mi è piaciuto parecchio. Me la descrivi un momento, anche musicalmente, a me interessa anche musicalmente, cosa ne pensi? Come l'hai costruita? Ma la cosa che a me piace di questo pezzo è che direi ha un inizio piuttosto così sussurrato. Sì, è vero. Leggero, tra virgolette, possiamo dire. Come? È un po' leggero, tra virgolette, sussurrato, appena appena accennato. Sì, esatto. Però poi cresce. E invece c'è un ritornello decisamente potente. Sì, che entra immediatamente nel circolo, esattamente. Questo. L'andiamo a sentire allora. Ok. Sì. Blu Radio Sera. Everybody talks and everybody sees, but nothing at all can keep me falling so deep. Words don't mean nothing. We lay in our bed, bathe in a red light. All the things you said, blue, and you would be red. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo sentito Dedicated to You di Giulia Villari, che è al telefono qui con noi questa sera all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto. Maurizio. Sì, Giulia, voglio fare questa considerazione, non so se sei d'accordo. Avevo qualche movenza anche noi sto pezzo, durissimo, potente, e la stessa, cioè accarezzavi e poi davi il colpo finale. Ma infatti una cosa che potevo dire forse non è tanto appunto quel fatto che è piano e poi forte, ma che l'intervento finale, cioè un assolo di chitarra con delle note veramente che io assurde, quella è stata un'indicazione di Rob. E veramente delle dissonanze incredibili, e quando mi ha detto devi fare questo io l'ho guardato e ho detto ma sei sicuro? Mi ha detto sì guarda fallo, e alla fine è diventata la cosa che mi è piaciuta più di quel pezzo, dissonanza veramente anche per me, che insomma sono abituata a sentire cose parecchio insomma strane, questa mi sembrava quasi troppo strano. Maurizio, dimmi. Noti la delicatezza della voce di Giulia al telefono e poi nel esatto. Disco ci dà dentro, mamma mia. Alla grande. Sì. Questo è un mestiere, questo. un bel pezzo veramente questo qua. Volevo anche ringraziare il nostro direttore artistico che ti ha chiesto, cioè abbiamo fatto un'intervista con te, che ti ha invitato fortissimamente a venire qua a suonare. Può darsi. Sì, è vero. Alberto Prisco, lo salutiamo, che adesso sta in montagna, ma si sente via computer. Sì, ma presto verrò, presto, appena sono lì verrò, ringrazio anche io tutti voi. Certo, perché dal vivo deve essere un personaggio decisamente notevole, Giulia, secondo me. Anche Sergio annuisce, dietro il vetro. A proposito di live, come ti presenti a livello di strumenti sul palco? Allora, la formazione, diciamo, classica, cioè la formazione, diciamo, normale, con tutta la band, siamo in quattro, ed è appunto una formazione classica. Chitarra, basso, due chitarre, sì. Basso e batteria. Ah, due chitarre, proprio, perfetto. Sì, perché anche io sono certo, chitarra. Certo. Però, insomma, sì, ci muoviamo in varie situazioni, e c'è una situazione in particolare che mi piace molto, che vedo che piace, sono contenta, che siamo io con la chitarra acustica e il mio chitarrista, che è Riccardo Corso, che ha partecipato anche in questo disco producendo con me la prima traccia che avete sentito, sì. River, sì. Con la chitarra elettrica. Questo duo strano, devo dire che piace a me e sembra piacere anche insomma al pubblico. Bene. Una cosa positiva, decisamente, è una cosa positiva e originale, possiamo dire, tra virgolette. Cosa dici, Giulia? Originale, sì, no. Nel senso novità, però è una cosa che fa piacere. Due suoni che si accavallano, due suoni, uno acustico e uno elettrico, dà un certo senso, una certa profondità. Sì, diciamo, è sempre una scommessa, poi penso, soprattutto per chi fa rock, di suonare le canzoni in versione acustica. Però insomma sembra che le mie canzoni ci stiano bene, penso, insomma pare che stiano bene, che vadano bene anche in una situazione un po' più tranquilla. Sì. sì. Nelle critiche ti hanno avvicinato, cioè come tuoi punti di riferimento c'è PJ Harvey naturalmente, c'è Courtney Love, c'è la Morissette e anche qualcosina di Tori Amos. Che ne pensi di questi input? Io ho notato molto, insomma ho notato un po' Alanis Morissette e un po' anche la nostra Elisa. Elisa. Sì. Cosa ne pensi Giulia di questi piccoli punti, questi punti di riferimento? Ah, mi pare che sono giusti, anche se sono tutti nomi che ho ascoltato parecchio. PJ Harvey sicuramente è tra quelle che avete menzionato, l'artista che seguo di più, ma di lei diciamo preferisco alcune cose, non tutte. Non tutto. Si vede che comunque anche quelle cose che ho approfondito, diciamo una parte del suo lavoro che ho approfondito, evidentemente ha lasciato un segno forte nella mia formazione, nella mia mente. Però ci sono anche altri nomi, io lo dico sempre, Annie DiFranco è stata sicuramente Annie la DiFranco. Mia mentore adolescenziale, mi ha aperto veramente la strada alla musica. Sì, perché è una scrittura particolare Annie DiFranco, anche musicalmente, decisamente diversa dal cantautorato americano, anche di un certo impegno. Musicalmente è un personaggio che ha fatto tantissimi dischi in ogni caso, e molto molto diverso uno dall'altro. Insomma. Sì, lei veramente ha un genere che si potrebbe dire genere Annie DiFranco. Non ha veramente simili, anche nel modo in cui suona la chitarra, eccetera, eccetera. Però la cosa che evidentemente mi ha avvicinato a lei è stato comunque il fatto che lei è molto vicina appunto alla musica nera e anche io, e questo poi è un po' una cosa strana per musicisti rock, perché io provengo dal jazz in realtà, cioè ho studiato jazz per tanti anni, pensavo addirittura, insomma stavo quasi iniziando la carriera di cantante jazz, perché insomma appunto l'ho studiato tanti anni, e la musica nera per me è importantissima, insomma. Cioè lei comunque dentro? Sì, è la mia musica, quando sento appunto, non so, appunto jazz, quindi Miles Davis, oppure chi ne so, Cannonball Adderley, oppure altri, eccetera, eccetera, proprio mi sento fino a passare, che ne so, fino a Sly and the Family Stone, oppure ora mi vengono in mente un sacco di nomi, però sì, sicuramente la musica nera, con il ritmo della musica nera, è la cosa che ho dentro in qualche modo, forse l'ho acquisito, insomma. Però questo, e poi no, in realtà è vero, non è una cosa strana, perché voglio dire, Beatles, Rolling Stones e tutti quanti sicuramente appunto hanno tantissimo della musica nera, però in generale ultimamente vedo che il rock è andato più verso altre sponde, invece per me ancora quello è un po' punto di riferimento principale. E in Dedicated secondo me cantavi, ti ispiravi, avevi un liaison col blues, un blues malato secondo me. Può essere. Almeno in qualche momento del pezzo, in qualche sequenza del pezzo, mi ricordava un po' di blues, secondo me. Beh, sicuramente, insomma, rock e blues sono legati strettamente. Gemelli, sì. Esattamente. Cosa dici, Sergio? Passiamo un altro pezzo? Andiamo a sentire la traccia numero 4, se dite, se è il momento giusto per farlo, che si intitola The Story, e lei, come abbiamo detto, è Giulia Villari, qui con noi a Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Long hair black, talking about love. Beh, io mi aspetto con questo pezzo di sentire Julia Villari nei primi posti delle classifiche inglesi e americane, perché è veramente azzeccatissimo. Julia, ancora qui con noi. Eccomi, sì. Bello, bello, veramente bello. Grazie. La gamba non si fermava mai. Bello, veramente, carino. Maurizio. Sì, è un pezzo decisamente invitante. Fai muovere un po' tutti col pubblico con questo pezzo, sicuramente. Galvanizzi un po' tutti. Cosa dici? È abbastanza, sì, scatenato. Scatenato, sì. Potente, ma potente anche, sì, fatto bene. Una potenza che via via aumenta, pezzo, momento dopo momento, nel brano, chiaramente. Infatti succedono cose quando suoniamo questo pezzo. Una volta mi sono praticamente distrutta un dito sanguinando per il palco. Come mai? Perché evidentemente ci avevo messo in quel caso tanto impeto, troppa energia, troppo impeto, troppo rock, e non mi ero lasciata andare a un rock troppo selvaggio. In quel caso era una panchettara al 100%. Sì, no, ma infatti tutti sono un po' stupiti, perché appunto io non so, sono bionda, sembro un po' così nordica, così un po' una figura un po' anche un po' freddina, invece poi e poi invece sì, dice oddio, ma sei tu la posseduta. Mi puoi ricordare i musicisti che ha suonato in questo disco, oltre ai musicisti che hai citato prima? Allora, vari musicisti. Allora, Riccardo Corzo appunto ha suonato con me e ha prodotto appunto questo primo pezzo. Sì. E negli altri pezzi invece ho suonato io la chitarra, e alla batteria c'è sempre Riccardo Castellani, che si sente, si sentiva benissimo in questo pezzo. Sì, abbiamo due bassisti, uno è Gianluca Ferrante che attualmente suona con me, e invece un altro è Tommaso Presciuttini, e poi c'è Rob che ha suonato vari strumenti. Varie percussioni, ha fatto le voci anche, ci sono alcuni cori fatti da lui. Benissimo, quindi un bel gruppo, affiatato sicuramente, Giulia. Sì, con Riccardo appunto ormai lavoriamo da un bel po' di tempo, anche con questo batterista, è il batterista con cui ho suonato da sempre. Quindi ti conosce assolutamente. Ci siamo folgorati, non lo so, siamo riusciti a trovare subito una nostra dimensione, però adesso lui abita a Londra, quindi ci troviamo un po' nei momenti così in cui lui viene o io vado, e infatti con me adesso sta suonando la batteria una ragazza, si chiama Giulia Raggiarino. Bene, molto positivo questo. Sì, quindi conosciamo delle batterie, una figura femminile. Sì, una figura femminile. Parità dei sessi, nel mio gruppo abbiamo le quote rosa. Mi pare giusto che non sono frequenti, in effetti. Esatto, sì, infatti l'ho molto voluto. Volevo, insomma, che ci fosse anche un'altra ragazza, insomma, nel mio gruppo, mi faceva piacere, mi sembrava una bella immagine anche da proporre al pubblico, ecco. Certo. Giulia, questi pezzi sono stati scritti in un arco di tempo abbastanza veloce, oppure sono dei pezzi di un po' vecchi, elaborati nel tempo? Con il tempo. E allora, sono tutti questi sei pezzi hanno la particolarità di essere stati scritti veramente in un'ora, come scrittura. Invece no, la raccolta comprende pezzi più vecchi e pezzi più nuovi. Il più vecchio tra questi è Dedicated to You, che è stata, penso, la terza canzone che tu hai scritto. Sì, è stata una scelta di Rob, poi la scaletta l'ha scelta lui, l'ha voluto lui, insomma, dire quale dovevamo fare, quale no. Ho capito, no, cioè, tu hai Rob, hai fatto sentire i pezzi e lui ha scelto praticamente. Sì, in una maniera veramente che ancora mi stupisco che mi abbia seguito in questa avventura, perché saranno stati grezzi, insomma. No, peggio che grezzi, è una cosa orribile, cioè senza vergogna, io proprio senza vergogna, però lui evidentemente è abituato a queste schifezze che gli mandiamo e quindi non ha battuto ciglio, anzi. L'importante era dare l'idea, insomma, del brano che volevi. Esatto. E poi, insomma, lui ci ha giocato su, ci ha lavorato su. Cioè. Sì. C'hai qualche concerto che puoi citare, Giulia? Concerti, guarda, fra pochi giorni, prossimamente. Intanto reindirizzo tutti sul mio sito, che certo, è giuliavillari.com, e anche sui vari Facebook, Twitter, bla bla bla. Mm-hmm. Contattatemi, scrivetemi, sostenetela, quello che volete. E che a me fa piacere, insomma, comunque ricevere messaggi, eccetera. E però adesso sono in queste sole, sono un attimo in fase di fermo per quanto riguarda i concerti, perché mi sto occupando del nuovo disco. Ah, bene, benissimo. Sto cominciando a registrare nuove cose e quindi un po' di pausa. E se fisicamente uno vuole il disco, proprio questo che abbiamo sentito stasera? Va su iTunes, cerca appunto River o Giulia Villari e esce fuori il mio disco. Bene, bene. Tra l'altro iTunes è veramente una cosa, per me è una droga, perché non devi uscire per andare a comprare il disco, non devi fare neanche la camminata, sei proprio lì, clicchi e ce l'hai, è una cosa magica, cioè, veramente io mi dovrebbero mettere la password di sicurezza, non lo so, perché per me io scaricherei tutto. I puristi del vinile, del CD stanno inorridendo, quelli che trascorrevano ore nei negozi. No, sì, ma le due cose sono assolutamente compatibili. Ma sì, no? Alla fine, io penso. Sì, sì, sì. Anzi, cioè, sono compatibili. Uno la musica se l'ascolta, poi se veramente gli piace avere l'oggetto, e anche a me piace avere l'oggetto, eccetera, eccetera, poi se lo vai a prendere, eccetera. Però lì iTunes è veramente una cosa immediata, ti senti quello che ti piace, lo vuoi, lo prendi. E cioè, poi forse c'è anche più spazio per gli emergenti. Sì, sì. Cose che magari nei negozi classici, insomma, non ormai si trovano. Ormai quasi non c'è più, sì. Beh, sappiamo le varie discorsi anche sulla crisi del disco. Sì, mamma mia. Eccetera, eccetera. Non entriamo in questo argomento. E Giulia, i pezzi nuovi che hai scritto portano avanti questo discorso, o c'è un'evoluzione secondo te rispetto a quelli che abbiamo sentito adesso? Allora, è un po' presto per dirlo, però penso, quello che ho in mente è di fare qualcosa di un po' diverso, rimanendo sul, diciamo, il mio tipo di scrittura, seguendo comunque la mia scrittura per come mi viene, per come mi è venuta, insomma. E già la scrittura in sé è cambiata nel tempo. Però penso che vorrò dare un sapore, cioè sto cercando di dare un sapore diverso. Avrai ancora Rob Ellis al tuo fianco oppure? Non lo so, ora come ora non ne abbiamo parlato, però vedremo, non lo so, ancora è troppo presto. Bene, stiamo verso la conclusione di questa bella intervista. Sì, sì, ormai sì. Sì, però vorrei che tu mi spiegassi, mi descrivessi il pezzo che abbiamo scelto, Sergio, non mi ricordo la traccia. Red Shirt. Ecco, esattamente. Mm-hmm. Una descrizione di questo pezzo che è molto bello, tra parentesi. Una descrizione. Cioè, una descrizione allora musicale. Come l'hai scritto? Come ispirazione mi è venuta? Allora, domande difficili? No, no, assolutamente. Fa sempre parte appunto di queste cose scritte un po' di getto. C'è una frase che dico, che mi piace molto, che secondo me è un po' la più significativa di questo pezzo, che dice: pareti con i quadri, come a descrivere, insomma, descrive una situazione tra due persone, così, non dicendo esplicitamente quello che succede in quel momento, insomma, non è una descrizione di un evento, però è una descrizione di una sensazione, più che altro di un rapporto, insomma, tra due persone. E mi piace che Rob ha aggiunto un pezzo un po' hippie, sì, non so, esatto, un po' anni 70 nel, sì, nella, diciamo, quasi verso la fine. Nell'insieme, sì, esatto, è vero. Sì. Ha dato quel tocco che era essenziale, perché Rob è un grande produttore e sa gestire ha gestito benissimo i tuoi input musicali, se sei d'accordo, Giulia. Decisamente, certo. Bene, abbiamo finito con te, ma però abbiamo sempre un appuntamento. Quando verrai e quando potrai, gli studi sono a tua disposizione per un bel live dal vivo qui con gli strumenti, e sarà decisamente molto positivo, secondo me, visto la grinta che c'hai nel disco. Grazie, io veramente accetto l'invito molto volentieri e spero presto di essere da quelle parti, magari passando anche a fare qualche concerto. Concerto, certo, certo. Spero presto di venire dalle vostre parti e vi ringrazio molto. Grazie a te. Grazie a te, Giulia. Ciao, saluto tutti. Alla ciao. Prossima occasione, ciao, grazie. Ciao, ciao. Blu Radio Sera. tracce per il disco di Giulia Villari. Noi ne abbiamo ascoltate ben quattro. Maurizio, il disco si intitola River, un disco appunto che ha come soggetto in pratica l'acqua. Era appunto Giulia Villari da Roma e con lei abbiamo chiuso con questa ultima traccia che si intitolava Red Shirt, maglietta rossa.